19 febbraio del 2025, continua la diretta di Radio Onda Rossa. E questa diretta continua appunto con prove tecniche di trasmissione. Programma che andrà avanti da adesso sino alle 22:30 circa. E poi ci sarà come al solito 25 o'clock. www.ondarossa.info, il nostro sito internet per ascoltarci via web. Già un numero considerevole di affezionati sono all'ascolto. Cominciamo a salutare Chris Florido del Canto di Vesta, Maya in Umbria, Marco Magia di Progetto Sonoro, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo. A Roma abbiamo Anna. Un grosso abbraccio a Cristiano Bocci di Chemical Resistance, reduce da un compleanno, i suoi 50 anni, distrutto e steso sul divano, pretenderebbe solo roba calma. Forse all'inizio lo potremmo accontentare, ma con il proseguimento del programma un po' meno. Moschita de Miramara, Simona della Morte, in Olanda. Un grosso abbraccio anche ad Omicidio con Antonio Zoviet da Firenze. Abbiamo Like Wake, Stefano Di Serio. Il medico della peste all'ascolto, ma come al solito affaccendato, magari in autocostruzione di strumenti ed oggettistica varia. Con il buon medico della peste negli ultimi tempi stiamo un po' organizzando degli eventi dal nome Roma Rumorosa, con una serie di concerti industrial. Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo, Mariano Niterri, Francesco Cornello in quel di Bergamo. Vi mando anche i saluti di Venusia Zozzetta Stramonio, che negli ultimi tempi ha avuto problemi di connessione di computer, ma che presto tornerà ad ascoltarci e a intervenire nelle nostre chat. Forse Cristiano Bocci sarà contento dell'inizio di questa sera, appartenente all'Astmord insieme a Karin Park. Quest'ultima una rivelazione, una splendida voce che di tanto in tanto lo accompagna anche dal vivo. L'album si chiama Alter ed è uscito nel 2021. Song of Soul è il brano che ho scelto per questa sera. Carissimo Antonio Zovet, hai perfettamente ragione, ascoltarli significa stoppare tempo e spazio. Sfida dunque il contemporaneo esistere, cristallizzato nella sua bellezza, devo dire. Last Mord insieme a Karin Park, atmosfere effettivamente più dreamy, come dice giustamente Simona della Morte, anche perché c'è la voce di Karin Park avvicinata anche a quella di Lisa Gerrard, giustamente. Ed è un album che per l'appunto ce lo siamo ascoltato praticamente tutto, manca soltanto un brano che ci godremo il prossimo mercoledì. Saluto Nicola Locci che ci sta ascoltando in Sardegna, valente musicista proveniente da quelle parti, con Hexagonal. E Stigmate. Vado a salutare Like Awake, non mi ricordo se già l'ho fatto, meglio due volte che zero. Andiamo nei vari pianeti di Raffaele Pezzella, per pianeti intendo le varie etichette che lui ha fondato o riformato addirittura. Per esempio la Reversis Alignment svedese che lui ha, come dire, rilevato. E questa sera invece andiamo nella 8 Tower Records, che si distingue dalle altre per un approccio, se vogliamo, più letterario, con molte compilation dedicate a scrittori e non solo. Questa volta invece ci andiamo ad ascoltare un lavoro del 2023, un Music for Abandoned Monasteries, e come recita il titolo, una colonna sonora, delle colonne sonore ideali per monasteri abbandonati, situazione che può generare un certo immaginario in tanti di noi. Come al solito ha chiamato il buon Raffaele, ha raccolto una serie di musicisti più o meno noti, direi più o meno che noti, e quindi cominciamo con l'americano Mombi Uleman con Fellowship of Heretics e poi un duo italiano, i Foanogramma, con Desertus Day. siamo inoltrati negli abissi dark ambient che caratterizzano gran parte delle tracce di questo Music for Abaddoned Monasteries, compilation del 2023 per la 8 Tower Records di Raffaele Pezzella. C'è molto di Rise on Detre e di Last Mord in tutte le tracce, anche in questa Desertus Day degli italiani Fonogramma e anche la precedente Fellowship or Heretics di Mombi Juleman. Angelo Panebianco, Matteo Mariano, il duo che compone Fonogramma. Un paio di lavori al proprio attivo. Una compilation che racchiude per la maggior parte proprio progetti ultrasotterranei, direi poco conosciuti. Anche in questo spazio sono capitati raramente dei nomi che poi andremo a scoprire pian pianino nelle prossime settimane. Jean-Claude Bertot in Val d'Aosta lo andiamo a salutare. Alicia Sardina qui a Roma, grosso saluto a lei, al pari di Christian, amico personale di questa radio nonché tassista. Sara Boy a Berlino. Sentite questa come effettivamente ancora più somigliante a molti passaggi di Rise on Detre. Peraltro è uscito un nuovo lavoro che presto ci ascolteremo su questo spazio. Un'altra etichetta italiana a noi molto cara è la Dissipazio di Nicola Quiricone. Tra le altre cose è stampato un nuovo lavoro di Emito Kunst, questa volta in collaborazione con Dennis Callaci, una bella voce tra Lou Reed e David Bowie, quindi un album molto particolare con le atmosfere tipiche di Emito Kunst ma arricchite da questa parte vocale. Apprezzeremo il tutto in Ghosts from Sonora e Wave. Si chiama First Light questa fatica di Emito Kunst, terzo lavoro, questa volta insieme a Danny Scallaci, la voce che sentivamo fino ad ora nella seconda traccia Wave. Un trasporto ieratico coinvolge tutti i suoni, qualcosa di diafano, qualcosa di ultraterreno, in maniera innegabile legata al krautrock e la psichedelia, come giustamente e puntualmente ci dice Antonio Zovet. Sia come Nars with Wound, ma anche certi fraseggi di David Tibbet e i Current 93. La voce a me ha ricordato più che altro Lou Reed, a qualcun altro il primo David Bowie. Fatto sta che la cosa più importante, che è estremamente funzionale all'opera di Emito Kunst. Saluto Lucia Cagliazza di Lupsi. Ancora Italia, ancora etichette italiane e andiamo dalla Glacial Movements, che è proprio qui di Roma, però l'artista in questione proviene da Milano e si chiama Lia Bosch, all'esordio con questo Polar Code, questo codice polare, che è un piccolo manifesto per degli intendimenti sia di Lia Bosch sia dell'etichetta tutta, che si esprime attraverso i movimenti perenni dei ghiacci, estremamente dilatati e siderali. Lia Bosch magari è forse ancora più inquieta e nasconde anche dei viaggi mentali non indifferenti. E stasera ci ascoltiamo Resonance, Stepping Beyond. quadro armonico è tendente al siderale, effettivamente. Immaginate i ghiacci che si stanno sciogliendo con quei rumori e scricchioli sinistri, ma anche in queste circostanze un viaggio interiore in qualche abisso dell'oscurità. D'altronde freddo e oscurità fanno parte di prove tecniche di trasmissione, non potrebbe essere altrimenti. Nicola Locci vorrebbe del reggaeton, ma ammetto l'ignoranza in quella materia. E quindi un prove tecniche decisamente dark ambient e glaciale in questi primi 50 minuti. E adesso non è che in fondo andiamo assai distanti da Lia Bosch e dal suo Polar Code. Tornando indietro di 10 anni andiamo da Massimo Magrini e i suoi Bad Sector. Sifus del 2015, un po' metà tra movenze alla Claude Divier e anche antigruppe, quindi materiale ad appannaggio di Eddie Newton. Ci ascoltiamo Darion e Electa.